Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi partirei da una domanda su un tema che ovviamente mi è molto caro perché mi coinvolge direttamente. Il tema è: chi è il vero artista? Come si riconosce? Beh, naturalmente si riconosce dal suo approccio nei confronti dell'arte, delle opere che crea, si riconosce dalla sua non piaggeria. Chi mira troppo al mercato, al risultato nell'immediato, palesemente non è un vero artista. Chi lavora per urgenza personale e magari per lasciare un segno nel tempo è un vero artista, almeno come concetto. Però un vero artista si riconosce anche dal suo approccio nei confronti della vita, da quello che riesce a trasmettere agli altri. Bene, noi oggi vogliamo raccontarvi proprio la storia di un artista che è stato grande nel suo mestiere, il mestiere di creare, ma è stato grande anche nella vita. Un uomo che è stato non solo un cantante, un cantautore, è stato un disegnatore, uno scultore, un attore, un animatore radiofonico, ma ripeto, soprattutto è stato un cantante, un interprete sensibile, autore di testi meravigliosi, autore di adattamenti che sono stati cantati da altri, autore di cose che anche mi coinvolgono, poi vi racconterò perché. Nonostante tutto questo, è stato, come ahimè a volte accade, colpevolmente dimenticato. Come va? Come va, vecchi amici? Io sto bene, sempre bene. Ma un dubbio mi assale. Vi ricordate tutti di me? Sì? È un dubbio che assale tutti quelli che fanno arte e assale anche noi. Quanti oggi ricordano questa voce? Quanti ricordano la storia di questo grande uomo? Noi vogliamo ricordarlo e, se possibile, rendere giustizia a una grande persona in un paese che dimentica, che spesso non ha lo spessore per capire determinati progetti artistici. Insomma, noi oggi vogliamo ricordare Herbert Pagani. Questa era Cin Cin con gli occhiali, una canzone del 1968 tra le più conosciute di Herbert Pagani. Lui scrive i testi di questa canzone, le melodie sono di un giovanissimo Edoardo Bennato, che proprio in quegli anni si stava affacciando al panorama musicale italiano e che, anzi, forse grazie anche al successo di queste e di altre canzoni scritte con Pagani, inizierà la carriera nella musica che poi tutti conosciamo. Herbert Avraham Hajjaj Pagani, questo è il suo nome completo. Lui nasce il 25 aprile 1944 a Tripoli, in Libia, in quella Libia che ancora per poco sarà una colonia italiana. Nasce da Clemente Pagani e Giulia Arbibu, una coppia di origini ispaniche, berbere, ebraiche, un bel coacervo di culture che non poteva che creare un grande artista, come sarebbe diventato poi lui. I suoi genitori però si separano dopo la sua nascita e quindi Herbert diventa uno dei milioni di bambini contesi tra madre e padre, cosa che da adulto lo segnerà molto profondamente e soprattutto nella sua produzione artistica. Lui trascorre la sua infanzia, la sua adolescenza sempre in viaggio, prima con la madre in Italia, poi col padre in Europa, tra Austria, Germania, Svizzera, poi in Francia, un viaggio continuo, cosa che da un lato gli permette di imparare le lingue dei paesi nei quali vive di volta in volta, dall'altro lo lascia, diciamo, senza un punto di riferimento che possa chiamare casa, dove poter trovare una famiglia unita che lo ami, insomma una famiglia che lui non ha mai avuto. Herbert Pagani sente fin da giovanissimo di dover comunicare al mondo la sua inquietudine, il suo bisogno di essere amato, e durante la vita lo farà in tanti modi, e perché per lui non era tanto importante una forma artistica o l'altra, e in qualche modo tutte erano comunicanti tra di loro. La prima forma d'arte che lui sceglie comunque è quella visuale, perché il suo percorso artistico inizia col disegno, con le illustrazioni, ed è lì che comincia a farsi notare, a far conoscere al mondo il suo vastissimo talento. Nel 64 Herbert ha solo 20 anni, già espone i suoi disegni alla Galleria Pierre Picard di Cannes in una mostra dal titolo Disegni fantastici e paesaggi allucinatori dei disegni, ispirati tanto dalle illustrazioni di Escher e di Giovan Battista Piranesi, ma anche dai dipinti di Blake, di Fuseli, anche dalla letteratura, Lovecraft, Bradbury, Victor Hugo, insomma non dei semplici disegni, ma dei veri e propri segni di cultura che Herbert Pagani conosce, una cultura che è già sua fin da quando lui, giovanissimo, a Parigi frequenta la biblioteca del poeta Jean Rousselot, lo stesso poeta che nel 65 sulla rivista Planète lo definirà un visionario di 20 anni. E la mostra di Cannes è il trampolino di lancio della carriera artistica di Herbert Pagani. Negli anni successivi lui illustrerà le copertine di libri come Le Cosmicomiche di Italo Calvino per la Einaudi, La Fantarca di Giuseppe Berto per la Rizzoli. La mostra di Cannes è a tutti gli effetti il suo primo colpo d'ala. Ma lui non si accontenta del disegno, scrive anche canzoni, le scrive e le canta. A 19 anni, finiti gli studi, si trasferisce a Milano, ma una parte del suo cuore rimarrà a Parigi. Lui resterà sempre in qualche modo legato alla Francia, però è in Italia che la carriera di questo grande artista è destinata a decollare, perché nel nostro paese Herbert Pagani diventa famoso come cantante, ma anche come conduttore radiofonico. Il falco e il gabbiano. Siamo nel 1965, Herbert Pagani lascia Parigi, si trasferisce in Italia e inizia la sua carriera musicale, però il distacco non è facile, lui avrà sempre nostalgia della sua amata Francia e le sue canzoni sono e rimarranno sempre impregnate di quella ambientazione mentale, artistica e culturale. Si possono ricollegare alla tradizione francese, viene subito in mente il grande francese che poi era belga, Jacques Brel. Avec la mer du Nord. La scelta delle canzoni non è casuale, c'è sempre una forte identificazione culturale, umana, biografica. E Pagani sceglie quelle canzoni che sente in sintonia con se stesso per aspetti psicologici, morali, che affrontano temi politici o sociali, quei temi che lui ritiene importanti. Uno dei temi principali per lui è quello della casa, quel punto di riferimento di cui ha sempre sentito la mancanza nella sua infanzia. Nel suo primo LP autoprodotto, Una sera con Herbert Pagani, lui trasforma la canzone Le Plepei nella canzone Lombardia, una vera e propria canzone d'amore che rispetto all'originale di Brel aggiunge la parola casa alla fine di ogni strofa per sottolineare il bisogno di un punto di riferimento anche geografico, dove uno possa sentirsi a casa, dove possa sentirsi amato. Capite in quale abisso è finito il livello della nostra canzone rispetto a cose di questo genere. Comunque, quelli di Pagani non sono dei semplici adattamenti a canzoni straniere, sono delle canzoni originali che sanno esprimere intanto le sue inquietudini e poi svelano l'ipocrisia della realtà in cui lui vive, una realtà fatta di persone, l'Italia, che parlano ancora il dialetto, che hanno imparato l'italiano dalla televisione, persone per le quali l'italiano è una seconda lingua, persone che ovviamente conoscono poco niente delle lingue straniere, insomma è l'Italia dei primi anni 60. E così magari ci sono canzoni come Le Moribond di Jacques Brel che gli italiani ascoltano e non dicono nulla, ma proprio perché non le capiscono. E i problemi arrivano quando Pagani decide di adattarlo a suo modo, di tradurla in italiano. Questa canzone per esempio diventò Testamento all'italiana. In realtà i problemi arrivano non dagli ascoltatori, ma dalla censura, che allora insomma era una cosa seria, non si poteva parlare di determinati temi, non si poteva usare determinate parole, insomma erano gli anni delle calze contenitive alle gemelle Kessler e degli ombelichi coperti a Raffaella Carrà. E tra l'altro Testamento all'italiana non è l'unica canzone di Herbert Pagani che si scontra con la mentalità dell'epoca. Per esempio ci sono Ballata del fallito, Sedotte accasata, che fanno censurare l'intero 33 giri Una sera con Herbert Pagani, nel quale era inserita anche Testamento all'italiana. D'altra parte insomma quelli erano gli anni nei quali la censura colpì Bocca di rosa di Fabrizio De André, perché parlava di una donna di, diciamo, di facili costumi. Viene oscurata Dio è morto di Guccini, Radio Radio Vaticana invece la trasmette. E un'altra radio che in quegli anni trasmette musica senza censure o problemi invece è Radio Monte Carlo. E anche qui Herbert Pagani lascia il suo segno indelebile con un altro colpo d'ala. Amici Monte Carloni, sì, dico Monte Carloni perché Monte Carlini ormai non siete più, siete cresciuti, no? Ecco, qui è Herbert Pagani che vi parla dai microfoni sempre stereofonici di Radio Monte Carlo. Il 6 marzo 1966 iniziano le trasmissioni in onde medie, allora si diceva, trasmissioni che coprono tutta la costa tirrenica, e iniziano proprio con Herbert Pagani, con la sua trasmissione Fumorama, nella quale lui è l'autore assieme a un'amica, Annalena Libentani. È una trasmissione di intrattenimento intelligente, musica con barzellette, poesie, gag, jingle che lui stesso scrive, interpreta, una trasmissione leggera e profonda come lo era lui. Pagani registra a Milano dagli studi della sua casa di produzione, la Mama Record, chiamata così in onore di sua madre Giulia, spedisce le registrazioni, però quando può torna volentieri nella sua amata Francia per registrare direttamente negli studi della radio, dove lavora con Jean Larigny, un tecnico di grande esperienza che gli insegna tutto su quel mestiere, anche se Pagani sembra avere un dono che gli rende naturale parlare al microfono. Sono 30 anni che sono in pensione e la radio è stata tutta la mia vita. Ho cominciato, avevo 16 anni e ho finito da 60. Pagani era, non dico un dio, era un uomo che con niente faceva qualcosa, ecco. E ho lavorato con qualche anno con lui e ho fatto delle belle cose. Era un ragazzo proprio molto molto intelligente, molto in gamba. Aveva proprio il dono del microfono, della radio, perché parlava con la facilità e aveva proprio la radio nel stomaco, ecco, diciamo. Potremmo dire che Herbert Pagani è stato un precursore, un po' il padre di tutti i radiofonici, con uno stile anticonformista, giovanile, affettuoso, e in qualche modo lui anticipa anche i tempi di alto gradimento di Arbor e Buoncompagni, che arriverà 4 anni dopo e che poi con l'estro di Arbor e Buoncompagni rivoluzionerà la storia della radio, e le influenze si sentono ancora oggi. Insomma, è uno stile che contribuirà anche al successo di Radio Monte Carlo insieme a altri grandi animatori come Roberto Arnaldi, Ettore Andenna, Luisen Laberrino, Awanagana. Però rispetto alla musica, la radio occupa una piccola parte nella vita di Herbert Pagani, ma occupa una parte enorme per la radio di allora, per quella dei decenni successivi, e ne sentiamo i benefici ancora oggi. Tra le grandi cose che Pagani fa in quegli anni alla radio c'è una delle ultime interviste rilasciate dal grande Luigi Tenco. Siamo nel novembre del 66, poche settimane prima della 17ª edizione del Festival di Sanremo, quella nella quale Tenco gareggerà con Dalida con la canzone Ciao amore ciao, verrà eliminato e sì, ucciderà, o comunque così c'è stato tramandato, la versione ufficiale è questa. Un evento terribile, la morte di Tenco, che colpisce anche Pagani, che dedica a Tenco alcuni versi della sua canzone Da niente a niente, adattamento di So Far Away from LA di Nicolas Pierrac. È un episodio potente che forse insieme a tanti altri motivi contribuisce alla decisione di Herbert Pagani di lasciare l'Italia per tornare in Francia. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando di un disegnatore, uno scultore, un animatore radiofonico, un attore, ma soprattutto un cantautore, un musicista, persona a tutto tondo che però è stata un po' dimenticata. Stiamo parlando e cercando di rendere giustizia a Herbert Pagani. È un artista dalla vita breve ma intensissima. In 44 anni ha sperimentato tutte le forme di comunicazione, dai disegni che lui ha esposto a soli 20 anni in una mostra a Cannes, fino alle canzoni dei cantautori francesi tradotte in italiano, agli scontri con la censura, ai microfoni radiofonici nei quali inventa uno stile, il moderno stile di conduzione, quello leggero e coinvolgente, come era del resto lui. E arriviamo a quel tragico 27 gennaio 1967. Luigi Tenco muore al Festival di Sanremo. È un evento che travolge solo la parte intelligente della canzone italiana. Ricordiamoci che il festival andò avanti come se niente fosse e che beffardamente vinse Claudio Villa con un titolo emblematico, Non pensare a me. Ma Tenco è morto. È un evento che colpisce molto anche Pagani, che deciderà anche a causa di questa tragedia di abbandonare l'Italia, anche se in Italia la sua carriera prosegue bene, perché dopo gli adattamenti dei francesi in italiano cura i testi italiani di cantanti francesi che sono sbarcati sulla penisola, sono stati tanti in quegli anni. Michel Polnareff è una bambolina che fa no no no, Dalida stessa, la meravigliosa Françoise Hardy, e poi collabora alla colonna sonora del film VIP, Mio fratello superuomo, di Bruno Bozzetto, e scrive e canta la sigla Basso così, Metti un tigre nel doppio brodo. Collabora con cantanti che allora erano giovanissimi ma che diventeranno nomi tutelari della musica italiana, Edoardo Bennato, col quale scrive Aile Hawaii e Cin Cin con gli occhiali, e collabora con Giorgio Gaber, con il quale lavora al primo album, il primo album impegnato, che si chiama L'asse d'equilibrio del 68. Tra le varie canzoni per esempio c'è La vita dell'uomo, che è interpretata anche da Pagani, inserita in un album del 69 che si chiamerà Amicizia. La carriera musicale di Pagani sembra proseguire bene, diciamo sembra, perché comunque si scontra con la morale dell'epoca. Nell'album Amicizia c'è una canzone famosissima, Albergo a ore, forse la sua canzone più nota, le interpreteranno anche Ornella Vanoni, Gino Paoli, è la versione italiana dell'Les Amants d'un Jour della grande Edith Piaf, canzone che viene trasmessa in televisione con scritte in sovraimpressione, delle scritte che sottolineano la responsabilità di Pagani nel cantare in pubblico una canzone che parla di suicidio. L'album si aggiudica il Gran Premio della Critica del 70, però l'anno successivo Herbert Pagani non ce la fa proprio più. Torna definitivamente in Francia, è l'ennesimo colpo d'ala. Nel 72 pubblica Megalopolis, che è una specie di opera pop, di fantascienza, come lui la definisce, ispirata al saggio Il Medioevo Prossimo Venturo di Roberto Vacca. Bene, Megalopolis, lui la intende come una capitale di un'Europa che sta a simboleggiare l'ascesa e il declino di tutto il mondo occidentale. Una città futuristica, un po' frizzlanghiana, fatta di grattacieli altissimi, super tecnologia, una città in cui l'ambiente è devastato, le relazioni umane sono annullate. Con i grattacieli di Megalopolis torna il tema della casa, un tema tanto caro a Pagani, il tema di una ricerca, la ricerca di un punto di riferimento materiale ma anche affettivo, un punto di riferimento necessario soprattutto in una società come quella in cui vive lui, una società che sta trasformando le città, diciamo, in ammassi di case inospitali, invivibili. Insomma, un Herbert Pagani anche ecologista in un certo senso, anticipatore di temi, di problemi che sarebbero venuti, diciamo, agli occhi e alle orecchie del mondo negli anni a venire, però sempre con ironia, un'ironia che non manca di far sorridere, di far riflettere su problemi importanti. Megalopolis ottiene un grandissimo successo, apprezzato dalla critica francese che lo premia con il Grand Prix International du Disque dell'Académie Charles Lecroix. È un grandissimo successo che ottiene anche uno spettacolo, Pitture e Megalopolis, uno spettacolo che Pagani trae da questo album, uno spettacolo che prima va al Club Bobineau di Parigi e poi sempre a Parigi inaugura l'apertura del Palais de Chaillot. Megalopolis esce anche in Italia, è in formato ridotto, non viene notato, e insomma noi italiani rispetto ai francesi quanto a profondità abbiamo molto da imparare. Lo spettacolo arriverà comunque al Festival dei Due Mondi di Spoleto. E arriviamo al 75, che è un anno importante per Herbert Pagani, per vari motivi. Uno di questi motivi è la partecipazione allo sceneggiato televisivo Marco Visconti del grande Anton Giulio Maiano. Herbert Pagani è un menestrello giullare, si chiama Terry McColdo, recita al fianco di attori come Raff Vallone, Gabriele Lavia, Pamela Villoresi, però partecipa anche come autore alla sigla di chiusura che nell'ultima puntata eseguirà dal vivo. A fine 1978 io sono al castello di Carimate con i Decibel e sto lavorando a un singolo. Una delle due canzoni si chiamava Mano Armata. Io scrivo questa canzone, è una canzone insomma scritta da un ventenne, parlava di una rapina in banca, e in quel momento nei giardini di questo castello c'era lui, c'era Herbert Pagani, e il produttore comune di entrambi si chiamava Sandro Colombini, mi dice: dovresti fare due chiacchiere con Herbert Pagani perché magari viene qualcosa di buono da questo testo. E ci mettiamo a parlare, e intanto ho modo di apprezzare insomma una persona poliedrica, vulcanica, di grandissimo entusiasmo, e lui mi aiuta a fare un testo completamente diverso, cioè mi dà il colpo di genio, il colpo d'ala. Mi dice: senti, invece di fare un testo su una rapina in banca, fai un testo in cui c'è un bambino di 5 anni che rapina un negozio di dolciumi. È veramente un'intuizione, perché in qualche modo nel narrare di una società violenta, cosa che io da bravo punk volevo fare, avevo bisogno di una cifra stilistica diversa, di un momento surreale che rendesse la canzone così personale. Allora ci siamo messi a lavorare e questo Mano Armata insomma è diventata una canzone anche piuttosto rilevante per i Decibel. Tutto questo con un finale inaspettato, nel senso che ovviamente alla fine viene chiesto a Herbert Pagani di firmare il bollettino, cioè di firmare la canzone, e lui dice: no, non la firmo perché io ho semplicemente tirato fuori delle idee che Enrico aveva già dentro, e quindi è stato molto benevolo nei miei confronti, ma non era così, perché le idee le avrò anche avute dentro ma non erano uscite, e quindi era stato lui a stimolarmi. Ecco, questo è il mio ricordo personale, ma ci vuole probabilmente qualcuno che se lo ricordi ancora di più, e c'è una persona che può aiutarci a decifrare altro della complessa vita e personalità di Herbert Pagani, una persona che lo ricorda bene, intanto perché ha avuto tante collaborazioni con lui, poi c'è stato un grande legame umano ed amicizia, e poi è la persona che in qualche modo più di tante altre ha cercato di mantenerne vivo il ricordo con un album nel quale ha reinciso e, come dire, riportato in auge le sue canzoni. Sto parlando di Marco Ferradini, che abbiamo con noi. Buongiorno Marco. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Che piacere di sentirci dopo tanto tempo e parlare poi di un amico comune, di un grande personaggio. Certo. Io ho bisogno di te, perché ho bisogno di un ricordo, diciamo, più intimo, più stretto rispetto alle biografie. Com'era Herbert come artista, come persona? Herbert è un personaggio, allora vabbè, diciamo che artisticamente era una tavolozza di colori molto molto accesi, molto vivi. Vuoi che la sua estrazione, lui era ebreo, nato in Libia, poi è arrivato in Italia con la famiglia, e quindi ha avuto un passato veramente importante, anche di sofferenza. Sì, certo. Sì, molto molto. E da un personaggio così, che ha vissuto una buona parte della sua esistenza nei collegi, perché il padre lavorava in Italia e va anche in Germania, poi da tutte le parti, e lo portava con sé nei collegi, quindi lui si è dovuto costruire un suo linguaggio, diciamo, che inizialmente è stato il disegno, poi è passato la parola, quindi ha questo grande bisogno di comunicare con gli altri, di sentirsi vivo, di sentirsi partecipe, che l'ha aiutato molto, ecco, nell'arte, nella sua poi, certo, capacità di rapportarsi con gli altri. Ecco, e lui, quando l'ho conosciuto, molti anni fa, mi ricordo, la prima volta che l'ho visto mi sembrava un principe russo con una massa di capelli giganteschi, neri. Un personaggio che quando lo vedevi dicevi, ma che schicchi lei, cioè un grande artista, no? Certo. E poi in effetti lo era, perché la sua immagine esteriore corrispondeva con quello che era dentro. Quindi un vulcano, fai conto, un vulcano di sempre pronto a non stava mai fermo. E qui è nata questa collaborazione che ha dato i suoi frutti, decisamente. Io ho scritto per lui alcune canzoni, alcune brani che poi hanno fatto parte di questo doppio CD che si chiama La mia generazione, sì, che tu prima hai citato. Ho chiamato degli artisti a collaborare e tutti hanno risposto con grande entusiasmo, perché la sua figura era rimasta così in una specie di limbo. Cioè, infatti era la domanda che ti avrei fatto subito dopo: ma perché Herbert Pagani, diciamo, è stato messo su un secondo gradino e non su un primo come meritava? Allora, tu l'hai detto, meritava, perché io ho conosciuto la sua opera e la sua arte, è veramente immensa, ha fatto delle cose grandissime, non solamente come canzoni, ma anche come pittura, scultura. Lui era un poliedrico artista. Prima di morire lui era andato a New York perché stava allestendo la mostra delle sue opere grafiche e pittoriche, quindi un uomo che ha dedicato tutta la propria vita a creare delle cose completamente diverse. E perché invece si era un po' staccato invece dalla musica, sì, perché è rimasto un po' scottato, perché lui era anche un personaggio difficile. Ma forse lui, come dire, il fatto di essere impegnato su così tanti fronti, forse questo, sì, è stato da un lato, diciamo, il suo vantaggio, perché è riconosciuto come un artista a 360 gradi, però sì, forse non era un combattivo nel senso brutto che diamo oggi a questa parola, cioè uno che vuole sgomitare, spintonare. Sì, lui era un personaggio, come dicevo, focoso, quindi quando prendeva una sua idea andava avanti, non guardava in faccia nessuno, e umanamente era un personaggio ridondante, insomma, un personaggio, sì, che devi un attimo contenere, però era una persona anche molto generosa, molto molto sempre su di giri, ecco. È un grande personaggio da questo punto di vista, sì, sicuramente. Grazie Marco, sei stato gentilissimo, in bocca al lupo, tanto ci incontreremo, okay, in qualche autogrill o in qualche hotel in quest'estate. Ciao Enrico, ciao Marco, ciao. Ciao. Negli ultimi anni della sua vita Herbert Pagani si dedica sempre di più a quelle attività, come dire, collaterali, ma in realtà centrali per lui e per il suo pensiero. Nel 1988 si trova negli Stati Uniti per allestire una mostra di sue sculture al Greenwich Village di New York. Lui ormai, insomma, la musica la considera solo un'attività collaterale. Il centro di tutto è la sua arte creativa, figurativa, di scultura. Ma nel frattempo la salute lo sta abbandonando. Da qualche tempo soffre di una malattia che si aggrava proprio mentre lui è in America, e Herbert Pagani muore di una forma di leucemia fulminante il 16 agosto 1988 in Florida. Il funerale viene celebrato a Tel Aviv secondo il rito ebraico. Herbert Pagani viene sepolto in Israele e la sua orazione funebre viene pronunciata da Shimon Peres, che a quei tempi era ministro degli esteri israeliano. E da quel 16 agosto 88 troppa acqua è passata sotto i ponti, acqua che ha spazzato via anche il ricordo di molto di quello che ha fatto Herbert Pagani. Ci sono storie di colpi d'ala e a volte storie di colpi d'ala che vanno ricordati, perché la gente è spesso superficiale e dimentica le cose. Noi siamo qui anche per rimediare a questo difetto che la nostra società ha. Se volete aiutarci in quest'opera e mandare dei commenti o segnalare delle vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco il gabbiano chiocciola radio24.it, scrivete al nostro sito www.radio24.it, venite a cercarmi nei miei social Facebook, Instagram, Twitter, e venite a cercarci nei social del Falco e il Gabbiano. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno e Stefano Sfondrini, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.